James Bond. E lui, direttamente da Longiano, Henry Zavallori. Stavo tutti, cioè, pensando alla stessa roba, ma ha detto che sono ste belle ragazze. Catania Sicilia! Claudia Puglisi! Direttamente da Los Angeles, desde Roma, Alex Alessandroni! Percussione, direttamente da San Francisco, California, William Wynans! Succedendo lì Alessandro Asso Stefano di mi piace posso provare? Ti vuoi contare? No. Di allora i violini della camerata strumentale Città di Prato. Vi devo presentare un grande amico, cioè uno che suonava con noi nella prima lezione, Roy Paci. Originalmente scritto da Nini Rosso, no? Dove mi ha detto? Io non lo sapevo. Allora, sì, però noi stiamo facendo tipo un arrangiamento, diciamo, più spagnolo, di un cantante, Rafael, grandissimo. Questo arrangiamento l'ha fatto lui? e vediamo come va. Facciamo un maestro.